Merito a questi ragazzi che sono stati straordinari, sotto tutti i punti di vista hanno fatto una stagione bella, intensa, faticosa, però sono sempre stati sul pezzo. Questo mi è piaciuto tanto perché dalla prima giornata abbiamo tirato, diciamo, il gruppone. Ha paura di perdere il professionista o ci mette la mano sul fuoco e Conte ci sarà? No, ci metto la mano sul fuoco, questo con tutto il rispetto che va al professionista, perché conosco l'uomo. Tutti convocati di Carlo Genta. L'uomo Antonio Conte sicuramente vuole rimanere al 100% alla Juventus, l'uomo Conte. Poi c'è il professionista deve, ribadisco, per rispetto nei confronti dei tifosi, nei confronti della società, nei confronti di se stesso, nei confronti dei propri calciatori, avere chiaro tutta la situazione. Molto è anche una questione personale, è chiaro poi quando uno fa le considerazioni deve vedere tutto, deve essere per fare il mestiere come l'ho fatto io, per stimolare sempre i giocatori, per farli rendere oltre alle migliori qualità, insomma anche oltre al 100% bisogna che un allenatore sia carico, abbia stimoli, se lo senta, che vada con entusiasmo a fare gli allenamenti, eccetera, eccetera. Quindi sono una serie di valutazioni che uno deve fare con se stesso. È un mix un po' di tutto, insomma. Prima si parlava delle zone, le ultime settimane, del fatto che io avessi già deciso di andare via. Credo che in questo momento, ripeto, parlare del mio futuro non ha senso, non voglio parlarne. Vi chiedo cortesemente di aspettare 10 giorni, tanto ormai manca 10 giorni, e poi saprete. Giorgio De Luca in redazione e Roberto Scaltritti in regia, 800 24 00 24, questo per la vostra voce. Saluto e ringrazio Pierluigi Pardo, collega di Mediaset, voce ben nota. Ciao Pierluigi. Ciao, io ringrazio voi perché Don't Go Away degli Oasis ha già sollevato l'umore, che già era buono prima. Ma adesso... No, ma anche per me il fatto è che con la crisi del lavoro, no, nessuno, tanti posti vacanti, c'è chi invece la panchina la vuole lasciare, Conte, Mazzarri, Allegri. Ormai campionato finito, the end, potevamo anche mandare, no? Sul campionato, perché mi sembra anche tutto deciso. Se c'è una giustizia in questo gioco strano, il Palermo andrà in Serie B e l'Inter rimane fuori dall'Europa dopo 14 anni. Ci siamo già tuffati non in una piscina, ma nel futuro. Conte, Mazzarri, Allegri. Leggo che Conte potrebbe star fermo un anno. Tu ci credi? Ma ho letto anch'io. Tutta è la famosa asticella. È chiaro che Conte ha ragione dal suo punto di vista, ha fatto delle cose straordinarie, da un certo punto di vista forse è stato troppo veloce, nel senso che pochi avrebbero immaginato l'estate del 2011 a Bardonecchia, all'inizio del ritiro, che la Juve avrebbe vinto il primo scudetto, avrebbe vinto il secondo con questa autorità, e quindi è chiaro che adesso appunto la famosa asticella si sta alzando molto, c'è bisogno di investimenti di un certo tipo che non so se la Juve sarà in grado di garantirgli. Io penso che Conte rimarrà. Credo sia l'ipotesi più normale. Dal punto di vista quello che si è letto oggi, appunto, di un anno sabbatico, ha una sua logica. Diciamo che dal punto di vista della gestione del personaggio e della carriera di Conte potrebbe anche avere un senso, perché potrebbe essere un modo per preservare un'immagine completamente vincente. L'anno prossimo il rischio che c'è è che se la Juve dovesse anche vincere il campionato, ma non fare un ulteriore salto di qualità in Champions League, verrebbe vista come un'annata interlocutoria. Certo. È un paradosso, perché guarda, in questo andrà a battere cassa sui giocatori, no? Sì, in questo secondo me hanno ragione Conte, Mazzarri e in generale, insomma, tutti gli uomini di sport, quando quando provano a sottolineare il fatto che poi vincere e soprattutto ripetersi a certi livelli non è mai facile, no? sembra sempre scontato perché uno si abitua, però non è così. Lo scudetto che la Juve ha vinto apparentemente con facilità invece è frutto di un lavoro e di un'impresa. Certo. Quindi da questo punto di vista sicuramente hanno ragione, così come ha ragione Mazzarri nel sottolineare che il secondo posto non era scontato, ecco. Sì, no, non era scontato per niente, tanto che il Napoli ha fatto una stagione l'ennesima stagione straordinaria. Non so se questo ciclo sia finito, non so se Mazzarri andrà via. Io non credo. Credo che anche lui resterà lì dove è dopo questi battibecchi di Pramatica. Io credo però che se un allenatore sta bene ed è completamente non che non stia bene ed è completamente sì, ma anche l'anno scorso più o meno sullo stesso tono. Ma perché secondo me è lo stesso discorso. Mazzarri, che vive, insomma, io lo conosco sommariamente, non posso dire che sia un mio amico, non voglio fargli l'analisi psicologica a distanza, però ecco, dà la sensazione di vivere tutto con un certo stress giustificato ovviamente dal tipo di lavoro che fa, e la sensazione è che sia un po' stanco e che probabilmente avrebbe anche voglia di altri stimoli. Anche questo ci può stare. Ecco, la Champions League, sicuramente il fatto di poter programmare col secondo posto una Champions League in un certo modo può essere uno stimolo per lui, potrebbe essere anche uno stimolo per Cavani, perché poi se non arrivano questi 63 milioni, questi 70 milioni, alla fine Cavani potrebbe anche decidere un altro giro in Champions l'anno prossimo di farlo con la maglia del Napoli. Non ci credo tanto. No, anch'io ci credo poco perché penso che alla fine l'offerta che avvicinerà i 63 milioni arriverà e si troverà il punto di rottura, il punto di accordo. Sì. Però è chiaro che questo è uno stimolo, la Champions League per il Napoli è un grande stimolo. Certo, per chiudere Pierluigi, paradossalmente io sono convinto che Allegri andrà via dal Milan e arriverà a Seedorf, paradossalmente invece Stramaccioni resterà. Questo è un paradosso. E fra l'altro, allora, che Stramaccioni non sia il principale colpevole della stagione dell'Inter, siamo tutti d'accordo. È assolutamente evidente. Però mi sembra che nell'Inter ci sia una specie di immunità in questo momento sul discorso allenatore. Per carità, da un certo punto di vista è un discorso bellissimo. Stiamo salutando la carriera di Ferguson, che è stato uno che all'inizio non vinceva ed è stato sostenuto dal Manchester. Per cui, per carità, ben venga una società che decide di tenere Stramaccioni perché decide che non è colpa sua. Io non vorrei però soltanto che ci fosse un grande equivoco attorno all'Inter, cioè un allenatore che è grato alla società perché gli ha dato una possibilità enorme, che ha finito per essere aziendalista e per avallare alcune scelte francamente incomprensibili dalla partenza di Snyder in poi, e questo cortocircuito significa che Stramaccioni diventa aziendalista, la società lo tiene perché è aziendalista. Questo io vedo degli errori tecnici, anche insomma, comunque aver fatto di tutto, da Manchi di Rivaia per prendere Schelotto a gennaio, una cosa che l'allenatore in questa situazione non dovrebbe avallare. Se non le avallate c'è un problema a monte, perché vuol dire che all'Inter le cose non vanno come devono andare. Se le avallate, allora evidentemente anche no, certo. A me sembra non è certamente il principale responsabile. No, però la sua debolezza poi nei confronti della società, nei confronti dell'opinione pubblica, nei confronti del club e dei tifosi è emersa in tutto questo. Pierluigi, ecco, ti ringrazio. Devo lasciare andare a impegni importanti. 800 24 00 24. Beh, dopo il traffico tocca subito a voi, eh? A dopo. Percepisco un pochino poco rispetto per questa maglia, per questi colori, per questi tifosi. Poi l'ho detto, magari mi cacciano, mi espatriano. Tutti convocati. La vostra voce adesso, 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Ne vedo molti, anche molti maleducati, però questa è quasi prassi e triste, peraltro. Email tutti convocati a radio24.it, Twitter tutti convocati, quindi comunicate con noi come volete, come vi piace. Io preferisco la voce, la vostra. Giorgio Prato. Sì, ciao Carlo. Ciao Carlo, buongiorno. Guarda, io ritengo persino giusto, no, che in questo momento ci sia tutta questa attenzione nei confronti degli allenatori, perché credo che io mai come quest'anno, io ho 50 anni, sono 50 anni e seguo il calcio fin da piccolino, proprio sono appassionato, mai come quest'anno c'è stata proprio la mano degli allenatori nelle squadre, nel bene e nel male. Nel bene io dico due nomi proprio, Mazzarri, come dicevate voi, e Montella. Guarda, adesso il tifoso viola, ti assicuro, 35 anni che vado allo stadio, un calcio bello come quest'anno non l'abbiamo mai visto neanche ai tempi di Prandelli. La qualità... Giorgio, però anche lì dividiamo i meriti. In questo caso i meriti vanno comunque anche alla società, perché è un centrocampo tecnico, un centrocampo interessante, intrigante, capace di produrre come quello della Fiorentina, soprattutto quando la palla tra i piedi, insomma, ce ne sono pochi in Italia. D'accordissimo, difatti grande merito alla società e a Montella, che è stato anche bravo a individuarli, a farli scegliere insieme a loro. E nel male devo dire Stramaccioni, perché al di là di tutti gli infortuni che in effetti loro l'hanno avuto, e anche lì probabilmente c'entrerà pure qualcosa lui, è andato nettamente al di sotto del minimo sindacale, anche con i giocatori che aveva, veramente l'Inter. Ho capito, però leggi la formazione dell'Inter oggi, secondo te vale più della classifica che ha? Secondo me no. Secondo me l'Inter oggi vale la classifica che ha. Assolutamente sì, però come livello di gioco, anche con i giocatori che adesso, qualche cosa di più si potrebbe pretendere, a mio parere, a livello di gioco. Poi i punti sono quelli, anzi, secondo me meriterebbe di star sotto anche a Catania, che gioca molto meglio. Sicuro. Grazie Giorgio, alla prossima. Daniele Pavia. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono interista e in mezzo a questo disastro di questa stagione, che spero finisca più presto, sono contento che l'Inter non è andata in Europa, o perlomeno in Europa League, perché per come è concepita dalle italiane, per farla come sta fatta l'anno scorso, è meglio concentrarsi sul campionato, avere un impegno solo e magari riuscire a arrivare terzi. Sì. Perché fare un'Europa League iniziando da luglio, poi preliminari, e arrivare in questo stato è veramente meglio non farla. Poi in difesa di Stramaccioni, perché come diceva lei giustamente, quei giocatori che ha al momento, la classifica è quella, e io sono convinto che l'allenatore in una squadra conti al 20%, non conti di più, perché se diamo a Montella al posto di Pizarro e Borcavallero, Daniele, Gargano, siamo d'accordo. Poi sulle percentuali di quanto contano gli allenatori, ognuno ha la sua. La stagione del Barcellona dimostra però che comunque un allenatore serve, giusto o sbagliato. Poi Stramaccioni è chiara le sue colpe. Quanto all'Europa League, io non capirò mai perché solo da queste parti, solo in Italia, la si interpreta in questa maniera. Poi sono d'accordo che se uno deve ricostruire, se uno vivrà un'estate difficile come la vivrà l'Inter, può essere qualcosa di forse di superfluo, forse di tra virgolette fastidioso, però solo qui viviamo l'Europa League in questa maniera. Io invidio molto da questo punto di vista tedeschi, portoghesi, spagnoli. Bravissima la Lazio per come ha interpretato questo torneo. Erano anni che non vedevo una squadra italiana interpretare così come si deve questo torneo. Giuseppe Palermo. Io mi sono sentito convocare, buongiorno intanto. Buongiorno. Mi sono sentito convocare dalla tua frase iniziale nel... Se c'è una giustizia divina, in questo gioco... Palermo retrocede. Sì. Allora, io penso che se parliamo di risultati sportivi, il Palermo merita di retrocedere perché ha fatto meno punti di altri, e quindi è giusto così. Ma se parliamo di giustizia in senso lato, penso che sarebbe più giusto salvare un patrimonio come quello dei tifosi del Palermo, che applaudono la squadra che perde una partita decisiva in casa. Giuseppe, sia chiaro, questo è scontato. È una piazza importantissima. È una piazza importantissima, però un club non può essere gestito come è stato gestito in maniera seria. Perché se cambi 80 allenatori in una stagione con una squadra sbagliata e alla fine ti salvi, a me piange il cuore. Mi piangerebbe il cuore vedere il Palermo in Serie B. Però non si può gestire un club come ha fatto Zamparini, io sto parlando esclusivamente dal punto di vista sportivo, poi quello che tu dici è vero. E io volevo aggiungere un'altra cosa però, perché Zamparini, possiamo dirne peste e corna, ed è probabilmente la causa prima del tracollo del Palermo di quest'anno, e già dall'anno scorso se ne hanno viste. Ma no, però dico, quantomeno Zamparini non ha comprato mai partite, non ha mai trafficato in file illusioni o in passaporti. Vabbè, ma non, vogliamo dire che si è comportato come si dovrebbe, non come fanno i delinquenti. Questo va bene, se vogliamo diciamolo pure. Io sto parlando esclusivamente dal punto di vista sportivo. Non si può gestire un club come ha fatto Zamparini quest'anno e salvarsi, perché è un'ingiustizia sportiva. Poi mi dispiace per tutto il resto. Se poi stiamo ad allargare il discorso e vogliamo dire che ci sono un sacco di delinquenti in giro anche in questo mondo, vabbè, diciamolo pure. Intanto Vi do una notizia prima di andare alla top 3 delle dichiarazioni della giornata, come facciamo oggi, ogni lunedì, e oggi come se lo fosse, dato che ieri sera praticamente è sceso il sipario sul campionato, a mio parere. Bene, la notizia è questa, che le sfide salvezza si giocheranno tutte alle 12.30 nella 37esima giornata, quindi chi vuole si attrezzi. Fiorentina-Palermo, Chievo-Torino e Genoa-Inter, mezzogiorno e mezzo in campo. Adesso andiamo con le tre più divertenti dichiarazioni della serata di Serie A, partendo da Allegri e da una telefonata. La solita telefonata, o le solite telefonate che mi fa il presidente quando, prima di una partita o dopo una partita. Prima di una partita per sapere come stanno i ragazzi, per fare in bocca al lupo, e parla della partita, e dopo la partita per sapere come l'ho visto, come è andata. Credo che sia una normale telefonata tra un presidente e un allenatore. E dunque, Allegri e le telefonate con Berlusconi. Sappiamo che Allegri andrà via, sappiamo che arriverà Seedorf. Sapete voi che i pronostici non li azzecco mai, ma vedrete che succederà così. Allora, Hamsik, secondo gradino del podio. Mi dispiace per partite che abbiamo sbagliato, però per come si è messo il campionato veramente vale uno scudetto. Mi posso solo ripetere, io voglio che sicuramente che rimangano, perché il progetto c'è. Abbiamo fatto grandi risultati in questi 3 anni e sicuramente vogliamo continuare su questo passo qua. Perdere un giocatore che fa 100 gol in 3 anni è un mister che ci ha fatto lottare per scudetto, però questo è calcio e si vedrà. Hai capito? Siamo già alle cartoline di addio per Cavani e per Mazzarri, cartoline indirizzate da Hamsik, quindi io credo ci sia da dargli retta, no? Su questo, se non lo sa lui. Primo gradino del podio dedicato anche o soprattutto ai tifosi del Palermo, Sannino. E se a fine partita c'è stato questo lungo applauso da parte dei tifosi nei confronti dei ragazzi, perché vuol dire davvero hanno dimostrato in campo di voler dare tutto quello che avevano dentro. Poi i miei ringraziamenti vanno davvero a questi 25.000 persone che sono arrivate allo stadio, siamo terzultimi, e riempire lo stadio così è davvero questo la cosa che mi fa più male. Però al di là di tutto, quando dico alziamo gli occhi, guardiamo in faccia a tutti, perché vuol dire che davvero abbiamo fatto quello che potevamo fare in quest'ultimo periodo e anche di più. Questo era il mesto invece messaggio di Sannino. Interessante il messaggio, se interessante, è un bel gioco quello di Federico da Alessandria. Voto alla squadra rispetto alla rosa di settembre: Catania 9, Fiorentina 9, Juventus 9, Inter 5, Milan 8 più, Napoli 8 più. Secondo me è generoso con il Milan, beh, avrei dato qualcosa in più al Napoli. Lazio 8 con la Coppa, Udinese in Europa 10, e questo lo sottoscrivo. Giuseppe Pescara. Buongiorno, grazie per essere convocato. Sempre convocati, 800-24-0024, sempre, tutti i giorni. Ho bisogno di voi. Sì, niente, volevo chiedere una cosa. Lei parla sempre, per quanto riguarda la UEFA, della Lazio. Ma la UEFA, l'Europa League, l'ex UEFA. L'Europa League, esatto. Parla sempre bene della Lazio, ma pure l'Inter non è che abbia sbagliato tanto, si è impegnato abbastanza a livello di tecnico pure, perché ci ha rimesso mezza squadra, gli infortuni sono dovuti pure a quello, insomma. Quindi sì. una lancia per Stramaccioni, voglio dire. Ma insomma, interpretata fino a un certo punto, gli infortuni sono dovuti anche a quello. Probabilmente, però insomma ci sono è un impegno importante che viene sottovalutato dalle nostre, e io continuo a parlare bene della Lazio e continuerò a parlare bene della Lazio, perché erano anni che non vedevo comunque una squadra. Non dimentichiamo anche qual è stato il peso specifico degli avversari, perché parliamo tanto del calcio tedesco. La Lazio ne ha sbattute fuori un paio, ma alla grande di squadre tedesche. E la Lazio, non dimentichiamo, ha giocato gran parte della sua stagione senza il principe del gol, quello che l'altro giorno ne ha fatti 5. Non dimentichiamo questo. 800-24-0024, vi aspetto dopo la borsa. Anzi, c'è già Arturo da Napoli e Massimo da Torino. State con me. Quasi una cosa sessualmente vietata ai minori. Tutti convocati. Che torniamo. Io ringrazio Arturo da Napoli, Massimo da Torino. L'attesa è stata lunga, non ne ho colpa. Arturo, Ciao Carlo, grazie di essere convocato. Ma siete sempre convocati. Io ringrazio voi, non ringraziate me, non è il contrario. Dimmi. La domanda che voglio fare a te oggi è quella che ho fatto ad alcuni amici a Napoli, dicendoti: sì, secondo voi Mazzarri avrebbe vinto i due scudetti consecutivi alla Juventus? Come e si poi fa? Se mi consenti solo come un attimino, si fa a sapere? No, non lo so. Io penso di no, credo che perché? Parlando dell'importanza degli allenatori, Conte in questo momento abbia una marcia in più. Adesso che conosce l'ambiente juventino alla perfezione, forse l'ha dato il 200%. Allora, posso però dirti, credo posso, che sia candidato ad essere un allenatore alla Mourinho. Posso darti una risposta su questo? L'anno scorso, secondo me, Conte ha fatto un'impresa vera e con la compartecipazione del Milan, che aveva l'organico più forte. Quest'anno la Juventus era la squadra più forte. Sì. Ok, la mia idea è questa. Come rosa sicuramente. E solo se vi fai un ricordo del grande maestro Aldo Giordani, che bisognava aspettare differite a mezzanotte da Salonicco e da Tel Aviv. C'ero lì a aspettare con te sul divano. Mio padre che diceva spegni il televisore che domani devi andare a scuola. Grazie, sì. Grazie. Ti abbraccio io, sì, ero con te a guardare quelle dirette alle due di notte. In un basket maltrattato, come d'altra parte trattato non benissimo, è ora, secondo me. Insomma, sono cambiati gli orari, sono cambiati le modalità di ricezione tra satellite, eccetera. Però quasi quasi certe volte mi viene da rimpiangere le ore piccole che adesso sto facendo per l'NBA. Massimo da Torino. Buongiorno Genta, grazie di essere stato convocato. Ma grazie a voi. Volevo parlare di uno spettacolo indecente che è stato Torino-Genoa. So qual è, sì. Torino spettacolo veramente, cioè, che mi fa un po' vergognare di questo calcio. Ma comunque volevo dire una cosa. Io mi vergogno un po' di più di quello che è successo a Bergamo, personalmente, Massimo. Sì, se devo provare vergogna, insomma, sì, vergogna certo, è anche una parola però... grande. Per una partita. Tutta la partita, due tiri da 40 metri, è stato uno spettacolo veramente... piccolo e sì. Poi non sono contento dei tifosi che applaudivano ogni gol dell'Udinese. Io vorrei giocarmela in quanto tifoso del Toro, vorrei giocare la partita a viso aperto, cosa che non è successa, e non sperare, purtroppo non so, mi spiace per il Palermo, ma non voglio sperare nelle disgrazie altrui. Sì, in questo... Inghilterra il tifo si fa non denigrando l'altra squadra ma incitando la propria, Massimo, ed è quello ma... che mi piacerebbe. Non siamo in Inghilterra, ma non lo saremo mai, quindi, e non lo siamo mai stati, no? Quindi quello che abbiamo visto ieri sera a Torino o a Bergamo è semplicemente un remake di tanti film, di tanti B-movie che abbiamo visto da che siamo al mondo o da che seguiamo questo gioco. Quindi quanto alla vergogna, sappiamo che a fine stagione si gioca su questa lunghezza d'onda, no? Tanto che giustamente, come ho detto prima, faranno giocare in contemporanea le tre partite domenica, le tre partite che riguardano la salvezza, che vedono coinvolte Palermo, Torino e Genoa. Quindi sulla parola vergogna, la parola vergogna è tanta roba, io la uso per quello che è successo a Bergamo, non per quello che è successo a Torino. Per quello che è successo a Torino ne ho un'altra, tristezza. Intanto io adesso invece voglio parlare di quello che è successo ieri sera a San Siro. You can't come back, I think you are still there. Secondo me i tifosi dell'Inter che hanno messo il record da abbonati in una stagione così, che sono i tifosi più presenti della Serie A come media abbonati, in una stagione così ci hanno sempre sostenuto, secondo me hanno il diritto di esprimere. Li capisco perfettamente e non ho assolutamente niente da dire. Abbia fatto molto bene fino a un certo punto, abbia continuato a far bene dopo, ci sono stati degli episodi che l'hanno che l'hanno messo in condizione di non ottenere risultati, poi dopo è partita la serie degli infortuni e lì non è più. Quindi è difficilissima da giudicare in termini negativi. Ci sta anche Out of Time dei Rolling Stones, pietre rotolanti come l'interrotola in modo inevitabile, direi, verso i bordi della classifica dove sta la piccola borghesia del calcio fuori dall'Europa. Io ho trovato molto intelligente la contestazione, di molto legittima, pertinente e intelligente la contestazione di ieri sera della curva interista, molto forte nella sua coreografia. Però erano 12 domande rivolte al presidente Moratti, rivolte al club, tutte legittime salvo una, che sinceramente sulla maglia rossa, in una stagione come questa, sulla seconda maglia rossa lascerei stare, sono altri i problemi. Marco Barzaghi, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Il problema sai qual è? Il problema è che non è... Non parlare dello iettatore, se no mi nascondo adesso. Iettatore? Quello che... Quello dell'altra volta. Quello dell'altra volta che circola alla... Esatto. Mano. Lui, amore mio, l'allenatore in seconda! Hai sentito cosa aveva detto un ascoltatore, no? Ho trovato, dicevo prima, molto pertinenti le domande rivolte dai tifosi dell'Inter, tanto che insomma abbiamo sentito Moratti e Stramaccioni si sono accodati a questa sorta di via crucis, di striscioni. Il problema è la totale incertezza sul futuro. Non è un problema di allenatore, Stramaccioni resterà, ma forse è anche giusto che resti. È una squadra che non ha un principio e una fine, ma soprattutto non c'è lo straccio di un'idea per il futuro. Cioè, l'unica domanda che io avrei rivolto a Moratti è: cosa succede domani? È una bella domanda, infatti mi sa che anche lui, però è stato anche molto forte in alcune sue espressioni ieri sera, nel senso che comunque ha detto che toccherà a lui dare una risposta con i fatti e non con le parole, ancora prima della partita comunque ha fatto capire che si cambierà tanto, quindi a questo punto, se come continua a dire anche lui, Stramaccioni verrà confermato, quindi ci sono all'orizzonte dei cambiamenti importanti nella squadra, ma penso anche a livello dirigenziale. Quindi sì. Sta pensando di fare qualcosa di forte, comunque come ha sottolineato anche lui riguardo alla protesta dei tifosi. Ha detto: io stesso come tifoso avrei fatto una cosa del genere. Sì. Assolutamente d'accordo con comunque i tantissimi errori che sono stati fatti dal dopo triplete in poi, perché via Crucis penso che cominci già passato, già sì. La sera di Madrid con le dichiarazioni di Milito. Certo, Marco, ma su questo siamo sempre stati d'accordo, cioè e questo è un mio pensiero che ho allargato anche al Barcellona. Quando hai un allenatore così caratterizzante, quando hai raggiunto certi risultati, ci vuole il coraggio di una rottura più che il vapore della continuità. Invece è l'errore che Moratti ha fatto mettendosi al collo le pietre pesantissime di rinnovi contrattuali che sono costati un sacco di soldi e che l'Inter sta ancora pagando, e si è scivolati sempre più in basso. Questo è evidente. Il problema è che con i cinesi evaporati, con palline che rimbalzano a tutto il mondo, gli indonesiani e i russi, eccetera, eccetera, quello che, appunto, ti ripeto, anche sul fronte societario ci sarebbe da capire è quanti denari ci sono, quanto impegno ancora vuole mettere la famiglia Moratti, che cosa sarà dell'Inter a prescindere dall'allenatore e anche dagli interpreti, anche dai giocatori. Ma penso che Moratti, appunto, con le sue dichiarazioni abbastanza marcate di ieri sera, abbia fatto capire che indipendentemente da questi nuovi soci o che non ci sono, no? Smentiti. Che sembrano che, cioè, i contatti ce ne sono molti, da quanto mi risulta entro l'estate comunque dovrebbe muoversi qualcosa di positivo e non solo per il nuovo stadio, quindi dovrebbero chiudersi queste trattative che però al momento mi dicono anche con questi indonesiani appunto siano difficili, nel senso che ci sia da una parte la voglia di acquisire una quota maggioritaria, dall'altra la famiglia Moratti che non ha nessuna intenzione di perdere, diciamo, il controllo maggioritario dell'Inter, quindi c'è abbastanza un punto di domanda grosso all'orizzonte, però Morata ha fatto capire che soprattutto in campagna acquisti, al di là degli acquisti dei giocatori già presi, ha voglia di fare, quindi penso che sia questo il punto di partenza che può dare anche un po' di speranza ai tifosi dell'Inter per il futuro. Speranza non ne vedo tante in giro. Grazie Marco, grazie. Prego, buon pomeriggio. Alla prossima. Marco Barzacchi, c'è chi chiede: quali sono le 12 domande alzate dagli striscioni della curva di San Siro? Beh, tutte sono troppe da elencare, poi ve ne dico qualcuna dopo il traffico. Senti, io ti volevo dire una cosa, ma guarda che a Valentino lo stavano facendo per cadere. Tutti convocati. 800240024 è il numero verde vostro per partecipare, per farmi compagnia e per farvi ringraziare della vostra partecipazione a tutti i convocati. Domande alzate dalla curva interista, beh, insomma, riguardano tutto lo scibile interista di cui si è parlato, da perché sono stati messi in discussione i medici con cui abbiamo vinto il triplete, a perché il progetto di svecchiare la squadra comporta la vendita di giovani già presenti in rosa o provenienti dalla primavera, perché senso ha svendere sempre i nostri giocatori, perché si è crollati dal tetto del mondo e fino a qui è tutta colpa dei giocatori e allenatori che si sono avvicendati in questo periodo, eccetera eccetera eccetera. Sono domande ricorrenti, niente di nuovo, ma tutto pertinente. Gino, provincia di Milano, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao. Grazie per avermi invitato. Grazie a te. Volevo sì dire anche la mia sull'Inter, io sono interista, è un'annata no, diciamo che sono stati tanti sbagli. Però Gino, posso notare una cosa, poi dici quello che vuoi, le annate Prego. No capitano, cioè mi ricordo il Milan del Capello bis, del Sacchi bis, mi ricordo il Milan giocare annate disastrose, no? Come questa che sta attraversando l'Inter, però non c'era questa sfiducia dell'ambiente nei confronti della proprietà, cioè tutti sapevano che si sarebbe ricostruito. Il problema vero è che è successo anche alla Juve, no? Juve fuori da tutto, fuori dall'Europa e del Neri, ma mica un millennio fa. Il problema vero è che non vedo i tratti della ricostruzione nell'Inter. Ma io in parte sono d'accordo con te, in effetti anch'io sono un po' sfiduciato, devo dirti la verità. Però dopo le parole di ieri sera di Moratti mi fa pensare che lui finalmente prende in mano la situazione. Io dico la mia così, naturalmente sì, da tifoso che segue il calcio così. Per me Moratti ha la sensazione che tutti quelli che li circondano pensano che siano tutte persone che, non so, uso una parola un po' forte, delle brave persone. Io penso che tante persone dietro le sue spalle un po' lo prendono un po', insomma, gli tirano un po' la cravatta, sì, gli fanno fare delle cose sbagliate, tante cose. E lui, secondo me, se ne accorge troppo tardi. Ma lui anche, sì. Io penso, lui, ma sì, però, però è anche, Gino, però, se mi permetti, è anche un luogo Prego. Comune quello di dipingere Moratti come il ricco sprovveduto cui però, tutti la fanno sotto il naso, perché non è così, perché comunque gli allenatori li ha scelti lui e quelli che non gli piacevano sappiamo bene che fine hanno fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Se tu dici prende in mano la situazione, cioè vuol dire che fa quello che un presidente deve fare, no? In casi come questo, né più né meno. Adesso, prima di Marco da Milano e Sandro da Bergamo, vi regalo l'Oscar del gol di ieri con una bella dichiarazione di Matri. And the Oscar goes to... Grande palla in verticale per Matri, controllo di Matri, Matri il tiro, rete, Matri, questo è un gran gol. Normale che uno vuole giocare, ma io sono il primo a credere nelle mie capacità. Molte volte la critica è stata, diciamo che la critica, la ricerca di questo top player ha cancellato tanto il lavoro anche di noi attaccanti non considerati cosiddetti top player. Direi che dopo due settimane di posti anche di dare merito a chi c'è, a chi ha vinto e a chi sta giocando per vincere. Tu sei bravo, no? ma che bravo. Sei bravo, no. Tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono. No. Te lo dico io, tu hai un dono. Sto con Matri tutta la vita, che elegantemente ha detto basta spaccare i maroni con il top player. Noi siamo qui, abbiamo vinto due scudetti e quando ne abbiamo l'occasione la buttiamo anche dentro. Io penso che sia lo sfogo, ripeto, molto elegante e legittimo di un ottimo giocatore, non un top player, però di uno che ha contribuito in maniera importante a questi due scudetti. E immagino cosa voglia dire sentire sempre il ritornello quando arriva un attaccante forte tutti i giorni è sempre la stessa domanda. Mi metto nei panni di Matri e sto con lui tutta la vita. 800 24 00 24, il numero verde. C'è chi sottolinea come la domanda più bella tra quelle rivolte a Moratti e comparse sugli striscioni fosse: perché tutti i giocatori che se ne vanno parlano bene del presidente e male dell'Inter? Questa era una delle domande che ricorda Simone da Padova. Marco, Milano. Buongiorno. Ciao, dimmi. No, io invece volevo parlare di Allegri. Sì? Sono contento se se ne va via, se il suo pronostico si avverrà. Perché? Perché secondo me non è un bravo allenatore. Perché il bravo allenatore, secondo me, è Leonardo, che con una squadra mediocre è andato a parlare in Coppa dei Campioni. Uno che vende Pirlo dovrebbero ritirargli il patentino da allenatore. Uno che ha la fortuna di avere più una squadra non può assolutamente avere nessuna giustificazione nel non confermarlo. Sì, un'altra cosa grave, dimmi, sì, è quando ha fatto col Barcellona a giocare Costa al posto di De Sciglio. Costa al posto di De Sciglio. Abbiamo la fortuna di avere uno dei migliori talenti. Come terzino, lui quelli fa sempre il corpo a corpo. Sì, però difesa, Marco, voglio sottolineare come De Sciglio sia stato lanciato in questa stagione proprio da Allegri. Su Pirlo è un discorso infinito. Sul fatto che Allegri non sia un bravo allenatore, non sono d'accordo, perché è un ottimo allenatore che ha fatto, secondo me, in questa stagione la sua migliore al Milan. Sandro Bergamo, velocissimo, che dobbiamo chiudere. Una domanda. Prego. Perché gli infortuni con Stramaccioni sono una scusa per l'allenatore e quelli dei sei allenatori prima invece erano le sfortune degli allenatori? No, in realtà non è così, perché ricordiamo che le polemiche tra Mancini e i medici dell'Inter sono ancora lì che volano nell'aria. Io non lo so, non so dare una risposta. So che Stramaccioni è stato scelto da Moratti ed è stato difeso da Moratti e viene ancora difeso da Moratti, a testimonianza del fatto che, insomma, Moratti non si fa prendere per il naso da tutti quelli che passano di lì sotto la sede. Ci fermiamo qui, ma torniamo domani alle 2 con tutti i convocati. Giorgio Luca in redazione, Roberto Scaltretti in regia. Ciao. Ma se uno mantiene sempre lo stesso profilo, il famoso passo da montagna, non deve né correre né andare piano, sempre lo stesso passo.